dicono così si fa. Un comodino c'è una mina, tu si legga se la va. Ho messo lì i rinfiatini, dicono non ho l'età. Se si volta in un momento io ci rigioco, perché a me va. Illusioni che prego poi, basta così. Ne ho messi via due tre cartoni e comunque so che sono io. Ho messo via di consigli, dicono più facile. Ne ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto più so. E posto vuoto ce ne stato. Se invece mi sa, ho messo via un po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via te. Cose ma non spiego mai perché io non riesco a